Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto alle nonne e ai nipoti. E ai nipoti perché oggi diciamo che questa puntata è dedicata proprio a loro. Nonna, raccontami una ricetta. Ecco, questo è un po' il tema di questo nostro appuntamento di oggi. E vogliamo un po' scoprire se veramente ancora le nonne sono in cucina, se lasciano appunto come retaggio ricette che poi i nipoti così le preparano, e vedremo anche dei nipoti importanti, dei cuochi importanti che continuano a fare le ricette della nonna, ma anche nonne famose che sicuramente hanno lasciato il segno in cucina. E quindi io, non avendo più le mie due nonne che erano delle grandissime cuoche, oggi adotto tutte le nonne che abbiamo che avremo con noi in collegamento, ma anche quelle che si vorranno collegare. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Ci potete raccontare via telefono o via SMS le vostre ricette, le ricette della nonna. Bene, iniziamo così a fare questo giro un po' anche per l'Italia. Iniziamo con un nome famoso di una famiglia famosa, ma anche di un'esperta di cucina, perché è autrice di libri di cucina. Buongiorno a Maria Scicolone. Buongiorno a tutti. Ci vuole raccontare una ricetta, magari una ricetta che ancora oggi così viene sperimentata in cucina, magari è diventata un po' anche la ricetta della famiglia? Ma io devo dire, sono un'appassionata di cucina e la mia è una cucina di famiglia, una cucina di casa, perché sono i retaggi, sono i ricordi di mia nonna che cucinava tanto bene. La mia è una cucina prevalentemente napoletana e devo dire la verità, sono ancora legata per esempio una ricetta che non è una ricetta proponibile, però che ricordo, mia nonna era talmente fantastica che in tempi di vera povertà, perché adesso c'è tutto, ci si gira eccetera, è difficile cucinare quando non ci sono soldi, e mi ricordo che mia nonna faceva la ricetta di spaghetti allo scoglio. Cosa vuol dire? Vuol dire che, non avendo i soldi per comprare il pesce, mio nonno portava dal mare di Pozzuoli uno scoglietto nero, bello, quello proprio dove c'erano attaccate le pupitole, dove c'era attaccata l'erba di mare, e la nonna con tanta arte faceva bollire questo scoglio con un pezzo di cipolla, con un pezzo d'aglio, perché doveva dare tanti aromi, e poi faceva restringere un sapore particolare, e la nonna ci faceva la pasta fatta in casa e mangiavamo questi spaghetti allo scoglio. Beh, bisogna dire che a Napoli la cucina del nulla e del niente, come l'aveva chiamata Petronilla. Sì, la creatività. Adesso, per esempio, cosa posso dire? Io faccio non una ricetta, ne faccio tante. Domani, per esempio, ho a colazione, che è domenica, tutta la famiglia, per cui ci sono le bambine. Per esempio c'è la mia prima nipotina, che è un'appassionata come me di patate. Io adoro le patate e le farei in tutti i modi. E allora, per domani, che lei viene qui, ho scelto una delle mie ricette molto semplice, che sono praticamente delle patate tagliate a rondelle, poi le adagio sul fondo di una pirofoglia con burro e unisco diciamo per un chilo di patate un 700 grammi di crema di latte, dove sciolgo dentro 150 grammi di parmigiano grattugiato, metto tutto insieme e aggiungo del prosciutto cotto, lo metto al forno e sarà la delizia per 40-50 minuti a 180. Bene, che pensiamo che anche molti che hanno ascoltato questa ricetta magari domani la faranno ai propri nipoti. Grazie a Maria Scicolone, grazie e buon appetito. Grazie. Arrivederci. Bene, continuiamo. Beh, dobbiamo dire che la cucina napoletana, appunto quella delle invenzioni come questa dello scoglietto, diciamo che ha veramente delle grandi perle, a cominciare anche dal pesce finto. Il pesce finto è un'altra straordinaria ricetta. Comunque continuiamo con le nonne. Ricordo numero verde 800 24 00 24. Ci sono già arrivati degli SMS, ma le leggeremo poi. Continuiamo. Abbiamo con noi una nonna. Un'altra nonna, Mirella Fiandri, che è una sdora, se non erro. Buongiorno alla signora Mirella. Buongiorno. Allora, signora mia, lei di dov'è? Io sono di Fiorano Modenese, in provincia di Modena. Fiorano è famoso per la pista della Ferrari. Ah, ecco, sicuramente. Per individuare la zona, questo glielo dico. Beh, lei ce la racconta una ricetta magari che fa i suoi nipoti? Dunque, guardi, siccome io penso che sia giusto che anche i nipoti partecipino alla preparazione di quello che si fa in cucina, io le propongo una ricetta molto molto semplice, dove si trovano ingredienti di stagione e soprattutto ingredienti freschi. Bene. Allora, le posso indicare gli stricchetti fatti a mano con la sfoglia, con i piselli appena raccolti, la pancetta, che la pancetta è già matura quando si fanno in maggio, è una ricetta che si fa in maggio, che si ammassa il maiale d'inverno, allora la pancetta è proprio al punto giusto per essere usata. E i piselli li mando a raccogliere dalla mia nipote, che abbiamo l'orto qua vicino, perciò la filiera più corta di così non potrebbe essere. Quindi a chilometro, a metro zero, insomma. Metro zero, partecipazione, e poi sentono anche gli odori, i bambini. Sentono i profumi, imparano a conoscere la verdura, tutto, perché loro quando si va al supermercato vedono tutto in scatolato, anzi dei bimbi credevano che le galline facessero 6 uova perché erano confezionate con 6 uova. Bellissimo. Invece ne fanno una al giorno, anche. E è una ricetta molto buona, semplice e non costosa. Se vuole gliela posso anche dire. Ma magari brevemente, perché vogliamo dire che gli stricchetti sono l'equivalente delle farfalle, così? Sì, sono gli equivalenti, non cito il nome di una ditta famosa, sono le farfalle. Ci dica brevemente allora. Brevemente, allora, per 8 persone si prendono 1/2 chilo di piselli, 5 uova per la sfoglia con 5 etti di farina. Si fa prima la sfoglia, poi si tira, poi nel condimento ci vanno 100 grammi di pancetta, 500 grammi di piselli sbucciati, sbollentati, e poi ci si mettono gli odori, cipolla, sedano, carote, a piacere questo, pomodori freschi o passata. Alla fine un po' d'olio di extravergine d'oliva e sopra una bella grattugiata di parmigiano reggiano. Si fa la sfoglia, si tira a strisce, poi tutti sanno cosa sono le farfalle, chi le vuole più grande, chi le vuole più piccole. Si cuoce la pasta, non troppo, e poi si condisce con il sugo, come ho citato prima, piselli, pancetta, pomodori e odori. Grazie Mirella, è un piatto delizioso. Lei è stata deliziosa anche lei, grazie Mirella Fiandri per questa deliziosa appunto ricetta. Il gastronauta. Eccoci ancora a parlare di nonne, di ricette e di nipoti. Allora, sentiamo Micaela da Milano. Buongiorno Micaela. Buongiorno Davide. Buongiorno. Allora, lei è nipote o nonna? Mi sembra no, è nipote. sono una nipote molto viziata. Bene, dalle nonne immagino. Sì, perché io vivo a Milano, però sono friulana. Sì. E loro sono in Friuli tutte e due. E quindi ogni volta che torno a casa le chiamo prima e gli dico: nonna, cosa mi prepari questo weekend che vengo a casa? E loro hanno le loro ricette bomba, le loro ricette tipiche, che mi fanno ogni volta, gentilissime. Io poi ogni tanto cerco anche di copiare e di fare qualcosa qui a Milano, però la caratteristica è proprio che loro ci mettono tanto tempo, ovviamente tanto amore, e qui a Milano non sempre c'è tanto tempo per fare le cose, per cucinare. Senta, ma come si chiamano queste nonne? La nonna Anna e la nonna Giovanna. Ho capito, e la nonna Anna qual è la specialità? Allora, la nonna Anna, le specialità della nonna Anna sono il baccalà, sì, i carciofi ripieni e un ragù pazzesco. E io ho già prenotato i carciofi ripieni per il weekend del 6-7 marzo. Bene, l'altra nonna? E l'altra nonna, la nonna Giovanna, è la nonna dei pani dolci. Lei a settembre fa il pane con l'uva fresca. Bene. Adesso non ha più l'orto con il vigneto, però è un ricordo che ho bellissimo di quando ero piccola. Fino a qualche anno fa, a settembre, faceva il pane con l'uva del vino proprio. Grazie Micaela. Sentiamo Aldo dalla provincia di Padova, un radioascoltatore. Prego Aldo. Caro Davide. Allora, io ho un ristorante con la mia famiglia e voglio dire una cosa: che nei nostri ristoranti si trovano ancora le ricette vecchie, buone, di un tempo che ci facevano le nostre nonne. Purtroppo non vengono mai proposti perché adesso la tendenza è di fare dei piatti con nomi magari dagli ingredienti che nessuno conosce, però tutti cercano di sapere, ah sì lo so, ma tutti questi ingredienti strani. Per esempio io, noi abbiamo un ristorante di pesce, qualche volta proponiamo, non so, le sarde in saor, proponiamo i bigui in salsa che sono con le sarde salate, con le acciughe salate, piatti straordinari che hanno sapori unici. Beh, non so, il risotto de go per esempio, un pesce povero di laguna, tutti piatti magari straordinari, e sepe nere a veneziana, cioè tutte robe straordinarie, però adesso fa più moda, fa più tendenza. Bene. Non so, quello che propongono i cuochi stellati, e magari hanno degli ingredienti che nessuno conosce. Ma vedo conosce, comunque che le ricette che della nonna, che fanno finta di conoscere però la gente, per darti un tono. Bene, comunque vedo che le ricette della nonna rimangono, e come, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Continuiamo questo nostro viaggio. Ora abbiamo con noi un artista poliedrico, Daniele De Micheli, in arte Don Pasta. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Daniele. Senti, Daniele, tu hai avuto uno spettacolo e anche un libro, tutto sì, molto basato sulla memoria, sulle ricette della memoria, e mi sembra di una tua nonna. Esatto, cioè il progetto si chiama Food Sound System e il nome non lascia pensare che dietro c'è una nonna. Però io sono un salentino e l'idea è nata un po' da una frase che mia nonna mi disse, che è un po' in guisa del progetto, che dice: Daniele, se hai un problema aggiungi olio. E in un certo senso è la massima del mio progetto. Sicuramente la nonna, ma non solo la nonna, in un certo senso la nonna è quasi una sorta di metafora del concetto di tradizione. Io vengo dal Salento e per molto tempo il Salento è stato un luogo in un certo senso quasi isolato, quindi in cui queste vecchissime tradizioni gastronomiche, peraltro erano delle tradizioni sociali, di costruzione della comunità sociale di un luogo, un piccolo luogo remoto. E poi questa cosa, chiaramente la nonna in un certo senso rappresentava quella conoscenza antichissima dei piatti più vecchi, del modo di tagliare la carne, del modo di cercare gli asparagi selvatici. Una delle cose più incredibili sono appunto gli asparagi selvatici, che sono luoghi segreti che la nonna non dice a nessuno, salvo quasi verso la fine, quando si accorge che non ce la fa più andare a inerpicarsi su cose. Con quelle agli asparagi fai il risotto di asparagi selvatici. Quindi la cosa è sicuramente un discorso sulla memoria, però chiaramente fatto da un DJ che gira per il mondo, e che quindi per raccontare della parmigiana di melanzane fatta il 15 agosto a pranzo parla di John Coltrane. Ecco, rimani con noi, sentiamo Margherita da Udine. Buongiorno Margherita. Buongiorno a tutti voi. Mia testimonianza, sono due nonne, però entrambe mi hanno insegnato tantissimo, no? Sul fronte, diciamo, della cucina. Ma al di là di tante ricette che potrei citarne, ovviamente, sia di una che dell'altra, forse il contributo maggiore è un approccio che mi hanno insegnato ad amare la cucina in due modi diversi. Una, che viveva qui nelle nostre montagne friulane, la carne, mi ha insegnato il gusto della stagionalità. Cioè i funghi, andare a funghi e mangiare i funghi nella stagione dei funghi, o piuttosto che la cicoria in primavera, o piuttosto che, non so, anche le erbe selvatiche. Quindi diciamo quel gusto, motivo per il quale adesso non riuscirei a mangiare un peperone a dicembre, neanche a morire, quel proprio il gusto, no, della stagionalità. Quindi lei non lo mangia l'ananas a Natale? No, ecco. Neanche morto. No, proprio non riesco proprio a concepire. Bene. La ciliegia tipo a dicembre, nonno. E l'altra nonna invece mi ha insegnato perché veniva anche da un'esperienza di cuoca a servizio delle famiglie, no? Quando un tempo si andava a servizio le donne, le ragazze, giovani, e mi ha insegnato molto a fare la linea, quasi come in un ristorante, cioè ho imparato a preparare le verdure prima, no, pressarle, metterle da parte, come si fanno i ristoranti, la linea, che è una cosa è fondamentale, perché per cucinare, cioè, non è basta fare il manicaretto, ma anche organizzare la cucina. Quello. Bene. È l'altro contributo. Margherita, grazie. Margherita D'Utina, grazie del suo racconto. Ricordo, numero verde 800 24 00 24. Ci sono molti messaggi SMS, e ce n'è uno in particolare di Giovanni De Carpi, che dice che le nonne sono importanti perché insegnano qualcosa di importante dal punto di vista enogastronomico alle nuove generazioni. Questo forse può essere vero, ma chi ha ancora i nonni, purtroppo, perché poi magari vivendo divisi, in altre città è sempre più difficile, e ancora le nonne vengono sottolineate come collante delle nostre tradizioni. C'è ancora chi contesta la ricetta della scicolone, dice la panna, lasciamo perdere la panna. Bene, sicuramente di panna ne abbiamo già discusso in una lunga puntata abbastanza dibattuta. Numero verde 800 24 00 24, sentiamo Silvia da Torino, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare delle mie nonne. Avevo una nonna sarda e una nonna milanese, quindi abbiamo avuto modo di conoscere la cucina di entrambe, e dalla nonna milanese c'è rimasta una ricetta che in casa continuiamo a tramandarci, che è molto semplice, noi chiamiamo le palline verdi, fatta con bietole, ricotta, passate nella farina, bollite, e la nonna le condiva con tantissimo burro e parmigiano da buona milanese, e noi cerchiamo di renderle un pochino più attuali con condimenti più leggeri. Però diciamo che sono cose che si sono tramandate, che anche i miei figli, che adesso sono grandi, apprezzano tantissimo, e quindi mi piace ricordarle. Bene, grazie, grazie Silvia del suo racconto. Bene, ora andiamo da una neo-ristoratrice, Luisa Tricca, Osteria delle Civette ad Aciterna in provincia di Perugia, e la quale sta facendo una cucina, credo, con sicuramente come patrimonio molte ricette della nonna. È vero, Luisa? Buongiorno Davide. Sì, io ho dei grandissimi ricordi di mia nonna Cesira, che mi ha tramandato, che è stata una ristoratrice, una cuoca dagli anni 60, quindi non mi mancano i ricordi, non mi mancano i suoi libri di cucina con gli appunti, e non mi mancano le ricette scritte di suo pugno. Una cosa che conservo molto caramente è l'Artusi di mia nonna. L'Artusi è uno dei primi libri che poi parla di cucina casalinga italiana, quindi cambiando menù, ci divertiamo nel mio ristorante a cambiare menù tutte le settimane, e mi diverto appunto a risperimentare le ricette che trovo della mia nonna. Ecco, ce n'è una in particolare che magari ha più successo delle altre, visto tu è poco che hai iniziato, però c'è qualcosa così che più dell'altro attira? A me attira molto la ricetta, è una ricetta di un dolce, la ricetta di un dolce genuino e semplice, come poi sono tutte le ricette delle nonne, che sono i gnocchi di latte. I gnocchi di latte sono dei rombi fatti con una crema solida che viene fatta semplicemente con amido di mais, latte, zucchero, uova, poi si polverizzano con la cannella e il parmigiano, quindi io ricordo questo profumo di cannella mischiato a questo formaggio forte, che però serviva semplicemente per dorare questi rombi che poi uscivano, e mia nonna mi consentiva di tagliare e di mangiare gli avanzi di quando poi ne rimanevano dei pezzettini. Quindi ricordo di essere andata per la cucina del ristorante attaccata alla sua gonna a girare il sugo, a chiudere i tortellini e tutto questo. Bene, grazie a Luisa Tricca. Daniele, volevo chiederti, grazie, così per poi salutarti, se girando il mondo appunto col tuo spettacolo, ogni tanto magari sentendo qualche profumo in giro non ti ricordi la nonna? Ma guarda, la cosa affascinante effettivamente è che noi ci siamo, io girando un po', vivo in Francia, adesso sto io a Barcellona, c'è una cosa che è affascinante, che tutti hanno una radice nelle collettività, nei popoli, c'è sempre questo uso del cibo come strumento di società. Quindi a Tolosa c'è un mondo che è completamente diverso da quello dell'anatra, in cui tutto si basa sul grasso dell'anatra, sulle cose più anche poco economiche, ed effettivamente c'è lo stesso principio del fare molto, cioè nel senso che poi c'è questo piatto che è il cassoulet, in cui si butta tutto, si mette tutto, insieme a questi fagioli si cuoce la coscia dell'anatra, il fegato dell'anatra, il cuore dell'anatra, e si cuociono insieme ai fagioli. Quindi ci sono questi punti forti che si trovano in tutte le comunità, che sono i fagioli spesso, o comunque i legumi, che possono in un certo senso fare una sorta di cartina geografica delle comunità popolari che hanno conservato il costruire un grande piatto, che è il piatto della festa, probabilmente il piatto della domenica, che è quello, certo, che ricorda più la nonna. Bene, grazie a Don Pasta e a presto. Io passo la linea, sì, passo la linea alla regia, prego Diego da Trento di rimanere in linea, torneremo fra poco. Di nuovo buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo di ricette della nonna o di nipoti che appunto hanno così, stanno scoppiazzando le ricette della nonna e le stanno riproponendo, oppure hanno dei ricordi meravigliosi. Quindi prego i nostri radioascoltatori che hanno dei ricordi, hanno delle ricette, 800 24 00 24 di raccontarcele. Abbiamo Diego, un radioascoltatore da Trento. Buongiorno Diego. Buongiorno. Mi dica. Allora, la mia ricetta praticamente sono i canederli fatti come li faceva la nonna. E con questo piatto ho un agriturismo mio. Quest'anno ad Aresto, dove c'è la fiera Agri Tours e durante questa manifestazione si fa anche una gara di cucina contadina, ho presentato questo piatto e ho preso una menzione speciale dalla giuria. Bene, benissimo. Quindi sono ancora attuali, insomma, le ricette allora? Sì, diciamo che c'erano una quarantina di partecipanti e tutti quanti avevano le ricette, le loro ricette vecchie praticamente. Bene. Bene, come allora sicuramente sono ancora valide, ma la realtà sono valide, come lei ci sta dimostrando, quindi anche nella ristorazione, non solo a casa. Sentiamo Antonio da Roma. Buongiorno Antonio. Buongiorno a lei. Esatto, non solo in ristorazione ma a casa soprattutto, specialmente nelle famiglie con più etnie, diciamo, no? Io sono di Roma, mia moglie anche, ma di origine veneta. Pertanto nelle feste natalizie mi piacerebbe comunicare la ricetta di una salsa che nasce praticamente da un buon brodo, da un bel brodo che ovviamente sono i cappelletti. Con questo brodo, con le ossa, con il midollo, si compone una salsa, midollo, pangrattato, parmigiano, si chiama peperata. Bene. Peperata e non peperonata, peperata. Bene. E ovviamente lo dice il nome stesso, con tanto tanto pepe, da mangiare tranquillamente con il bel lesso del brodo e con la gallina. E le dico che chiunque entra in famiglia assaggiando questa salsa, che peperata, che è pertanto molto molto piccante, è una cosa favolosa. E questa salsa, pertanto, da mia suocera poi si sta trasmettendo, è una cosa bellissima. Antonio, guardi, lei ha parlato di bollito, ha parlato di lesso, e allora, come si dice, cade a fagiolo, perché... Io non volevo raccontare direttamente una ricetta a cui sono particolarmente affezionato di mia nonna. Io avevo due nonne che sono state delle grandi cuoche e volevo che qualcuno magari me la ricordasse questa ricetta, perché è una ricetta anche questa di recupero appunto dal bollito. E allora ho pregato un'amica attrice di Mondovì, Ada Prucca, la quale di solito nei suoi spettacoli recita e racconta le ricette. E allora chiedo ad Ada Prucca appunto di raccontare questa ricetta e di raccontare a voi questa ricetta che io ritengo straordinaria. Prego. Nonna, nonna, nonna, raccontami una fiaba. No, no, no, raccontami. Sì, sì, poi vada, nonna. Ma prima, raccontami una ricetta. Quella del lesso, nonna. Sì, nonna, quella del lesso rifatto. Tagliar la carne a fette, lavare i pomodori, togliere i semini e spezzettarli in una padella. Far rosolar con l'olio le cipolle affettate sottilmente. Unire la carne, regolar di pepe e sale. Aggiungere infine i pomodori, del basilico tritato e cuocere per alcuni minuti con il coperchio. Servire poi la carne con sopra il sugo. Ninna nanna ninna oh. Grazie Ada. Grazie Ada. Buongiorno, grazie. Davide. Buongiorno e grazie. Grazie. Bene. Grazie ad Ada Prucca e a presto. A presto, grazie. Davide. Sentiamo la radioascoltatrice Tina da Roma. Buongiorno Tina. Buongiorno. Senta, io vorrei darvi una ricetta caldea. Antica, chiamata, il nome è brutto, la scivolosa. Lei è nonna? No, non sono nonna purtroppo. Ah. Magari fosse, vabbè, finché decide mio figlio. Ah, ho capito. Sto aspettando. Allora, questa ricetta è fatta, si mangia 12 mesi all'anno, d'inverno bollente, d'estate fredda e poi temperatura ambiente. Insomma, per 12 mesi all'anno. Fatta di bieta a coste larghe. È molto semplice. Bieta a coste larghe. L'unico lavoro brutto che c'è è dividere, diciamo, le foglie dalle coste, poi spillare le coste come si fanno con le carte. Sì, sì. Ma vado avanti perché abbiamo tante telefonate in linea. Prego. Ecco, allora, si fanno queste, si spillano le coste, si mettono nel pentolo con acqua a bollire, con la buccia di parmigiano, formaggio sardo, qualsiasi formaggio duro, la buccia. Si bolle con un spicchio d'aglio o un cucchiaio di conserva di pomodori. Sì. Quando i costi sono inteneriti un po', allora si butta dentro i ceci lessati precedentemente, i fagioli borlotti con l'acqua. Sì. E poi dopo i fogli vanno fatti tipo julienne ma larghi, non proprio sottile. Bene. A striscione. E si fa bollire. Quando tutto cotto si prende una mezza tazza di riso lavato, buttato dentro e fa girare. E chi vuole può mettere pure un coso di peperoncino. Bene, grazie Tina, grazie. Va, Tina da Roma. Va bene? Grazie. Ora andiamo a Vico Equense, in provincia di Napoli, che ormai è diventata una delle capitali del mangiar bene italiano. E andiamo da una cuoca importante di un ristorante importante, l'antica osteria Nonna Rosa. Buongiorno, sì. Buongiorno Nonna Rosa. Proprio Nonna Rosa. Allora, qual è la ricetta che ha più successo nel suo locale, che lei fa con tanto amore? Scusa, non ho capito. Qual è la ricetta che... ricetta che preferite? Sì. Che io preferisco? Sì, ci dica. Allora, la ricetta che io preferisco, che ce l'ho sempre nel cuore, è la scarola legata, che sarebbe una scarola che viene ripieno con 5 ingredienti. Pronto? Sì, sì, pronto, ci dica, ci racconti. Sì, voi mi sentite? Noi sentiamo benissimo, forte e chiaro. Va bene, allora, in questa scarola ci vanno capperi, ulive nere di Gaeta, 2 filetti di acciugo, una fettina di aglio e un cucchiaino da tè di pecorino grattugiato. Poi questa scarola viene chiusa bella stretta stretta e legata con lo spago di cucina. Pronta? Sì, sì, prego, prego. Vabbè, lo spago di cucina. Poi la mettete nella pirofola e mettete un mestolo e mezzo, 2 mestoli di acqua. Un filo d'olio, la coprite bene e lo mettete a fuoco lento, lentissimo. Un quarto d'ora, 20 minuti, questa scarola sarà cotta. Bene, grazie. E buon appetito. Grazie a Nonna Rosa dell'antica osteria Nonna Rosa di Vico Equense di Napoli. Sentiamo Roberto da Roma, buongiorno. Buongiorno Paolini. A proposito di Nonna Rosa, mia nonna si chiamava Rosa. Ah, bene. Io parlo del 1944, il passaggio del fronte, dove si mangiava cavolo, cavolo, cavolo e poi qualche volta patate. Mia nonna si era inventata la ricetta delle patate impicchiata. Bello il nome. Le patate impicchiate erano fatte semplicemente cotte con la buccia, poi sbucciate dopo. Poi faceva una salsina così solita, un pochino di aglio, un pochino di prezzemolo, sale e un filino d'olio perché l'olio non si trovava. Poi si metteva le patate e si mandavano impicchiate in questa salsetta e ci mangiavano. Per noi era una festa. Bene, grazie. Festa. Grazie Roberto. Le patate impicchiate di Nonna Rosa. Bene, sentiamo Gesualdo da Varese. Buongiorno Gesualdo. Buongiorno a voi. Allora, la ricetta della nonna, la più povera che c'è, io vengo dalla Puglia, dal Tavoliere delle Puglie, da Foggia. Il pane che oramai non si è indurito, non si può più mangiare, sia a bagnotta sia nei vari formati, va lasciato una settimana a seccare. Va preparata una pentola con dell'acqua, ci si mette dell'aglio, 1-2 foglie di salvia e quando bolle si immerge il pane nell'acqua. Si può anche mettere la tradizione vuole patate e ruca, perché è una tradizione povera, quindi la rucola sì. Veniva è spontanea e quindi la patata veniva costava poco. Il pane che avanzava dai ricchi lo prendeva, che lo buttavano dalle finestre, questa è la tradizione. loro lo raccoglievano, pulivano e lo mangiavano così. Va immerso giusto il tempo di scottarlo, tagliato a dadini, a quadratini. Bene. Dopodiché va servito con olio, oppure si può mettere al posto della rucola dei cavoletti, dei broccoli di cavolo, o addirittura sostituire e mettere il peperone con le patate, ed è spettacolare. Grazie, grazie Gesualdo. Sentiamo Atena da Siracusa. Sì, buongiorno. Questa che vi do io sono nonna, è una ricetta antichissima che io ho ereditato, va bene, e si tratta di cucinare il pesce, quello di taglio, cioè il tonno che prima va messo sotto acqua a dissanguare, pesce spada e altri pesci del genere, va bene, a fette. Sì. E allora si fa in questo modo: si prepara prima della salsa di pomodoro, che può essere anche quella là in bottiglia, senza alcuna preparazione tranne questa, aggiungere nella salsa qualche spicchio di aglio che poi verrà levato, dell'origano, del sale, del limone spremuto, va bene. E allora, e poi nella teglia va messa in un solo suolo prima della mollica di pane abbrustolita, e sopra questa qui ci mette quella salsa preparata, a cui si aggiunge un pochino di acqua, va bene, e un pochino di olio. Poi si mettono queste fette di pesce, si cospargono di nuovo con la mollica, si aggiunge dell'olio alla salsa già preparata, si ci mette sopra e si inforna. Eccoci di nuovo a parlare di ricette della nonna. A proposito, c'è qualche cretino che manda degli sms appunto definendoli in maniera molto particolare. Prego, farebbe molto meglio a risparmiare questo sms. Bene, abbiamo con noi Nicoletta Ruggerini, che è trittolare della trattoria Lago Verde di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia, quindi una oste. Ebbene, devo dire che molti anni fa io ho ricevuto appunto questa signora e dal marito un libro straordinario che era Pane e vin non ci mancava, piccola antologia di antiche ricette e piatti dei sapori di un tempo sapientemente elaborati da nonna Ida. Ebbene, questo libro è la fotocopia praticamente di un diario della nonna, giorno per giorno, con le ricette. Davvero un documento straordinario. E buongiorno alla signora Ruggerini. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Senta, pane e vin non ci mancava, e qual è, diciamo, la ricetta che più di ogni altra fa nel suo ristorante, tratta da questo libro? Noi facciamo le mostarde, facciamo i tortelli di zucca, che è la nostra specialità, poi il nostro ristorante è basato tutto su queste ricette di una volta, e la gente apprezza molto queste cose, perché le cose di una volta sono sempre le migliori. Quindi tutto il menù è basato su questo ricettario, esatto, di nonna, esatto. Ida. Nonna Ida, diciamo, questo ricettario a che periodo appartiene? Guardi, è stato scritto del 1941, perché appunto una volta facevano queste ricette e le scrivevano, e col passare del tempo le tramandavano sempre ai figli, ai nipoti. Certo. E noi abbiamo riprodotto questo libro, perché è una cosa che rimarrà, certo, secondo me nel tempo. Bene, grazie a Nicoletta Ruggerini, appunto del ristorante Lago Verde di Reggiolo. Beh, abbiamo in linea Suor Bianca dalla provincia di Treviso. Buongiorno, sorella. Conegliano, buongiorno. Sono Suor Bianca. Allora, una mia sorella mi racconta che ha un nipote di 9 anni, che quando ha difficoltà, non possono metterlo lui in vacanza, le sorelle sono a scuola, i genitori occupati, va dalla nonna. La nonna fa le sue cose di casa, fa anche da mangiare e fa pane, pasta, dolci. Lui impara e gli piace. Allora, una volta, facendo questo lavoro molto appassionato, lui è in sovrappeso perché ha una fame inarrestabile, dice alla nonna: nonna, ma tu cosa mangiavi una volta? Mia sorella, sorpresa, dice: tempo di guerra noi mangiavamo i polli di campagna. E come li faceva? Com'era? Allora li facevamo anche col ripieno dentro, se si faceva il pane, si metteva a ramollire, poi si metteva dentro gli ingredienti, e poi si tagliava la pancia, si toglievano gli intestini, si metteva dentro, e poi si faceva rosolare. E rosolare perché con poco grasso, perché si consumava tutta la pelle e diventava bella, croccante, buona. Questo bambino cominciava ad andare in estasi, perché è una fame, si mette il dito sulla guancia e dice: ma nonna, si ferma. Anche la nonna Pierina, che è un'altra nonna delle cugine, la nonna Pierina ha anche un pollo ruspante, i polli ruspanti, chiediamo a lei. Bene, grazie Suor Bianca. Come grazie. Faceva il pollo una volta durante, certo, la guerra. Grazie di essere intervenuta. Bene, abbiamo un'altra ristoratrice, un'altra nonna ristoratrice, titolare col marito della trattoria alla Speranza di Castelfranco Veneto. Buongiorno a Gemma Mion. Pronto? Buongiorno Gemma. Gemma, ci racconta, ci parla di una ricetta così che lei propone al suo ristorante, magari che ha molto successo, e quindi è la ricetta della nonna per antonomasia? Sì, io ne faccio diverse ricette di una volta. E tengo la... Allora, io faccio minestra alla spiraglia, che si fa con mettendo a bollire una gallina ruspante e una pentola capiente. Con le verdure, poi pulire bene tutti gli interiori, fegato, durello, budella, tutto quanto, tagliare a pezzettini e mettere tutto in un tegame, friggere lentamente. E poi si mette in una casseruola del brodo, si butta dentro tutti quanti questi interiori, si mette del riso. Quando il riso è metà cottura si mette delle tagliatelle, si aggiusta il sale, e così è una ricetta di una volta che vedo che la mangiano tutti volentieri. Bene, ecco. grazie Gemma alla Speranza di Castelfranco Veneto, la ringrazio molto. Bene, ora abbiamo con noi diciamo un nipote di un ristorante famoso, forse il più famoso se non tra i più famosi in Italia, che è appunto il pescatore di Canneto sull'Oglio, Giovanni Santini. Bene, diciamo che gli iniziatori di questa grande cucina sono stati i nonni. A Giovanni non chiedo una ricetta, chiedo semplicemente: quanti insegnamenti hai ricevuto da tua nonna, tu che ora guidi con tua madre la cucina appunto del ristorante? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, innanzitutto, la cucina del ristorante del pescatore è guidata anche dalla nonna, perché sono 59 anni se non vado errato, e se vado errato e se sbaglio mi aspetta in cucina col mattarello, che la nonna Bruna è in cucina con noi. Gli insegnamenti sono stati tanti, per me ragazzo e bambino è stata sostanzialmente un'educatrice del gusto, la nonna è stata colei che ci ha introdotto, me e Alberto, in modo particolare me in cucina, facendomi giocare, insegnandomi quelli che erano i profumi e i sapori della nostra casa, divertendomi, e grazie a questo sono riuscito a capire quella che era la realtà della mia famiglia. Sono sempre stato convinto che i ragazzi sono sempre, diciamo così, portati a dire di no ai genitori e mai ai nonni. Quindi i nonni sono coloro che possono insegnare facendoti sorridere e non facendoti pesare quello che stai facendo. Ecco, volevo chiederti questo in particolare. Tu poi hai fatto l'università, hai studiato, poi sei rientrato in cucina. Bene, di tutto quello che avevi così studiato, vedendo l'applicazione, hai trovato molte cose che poi sui libri erano quelle che ti raccontava tua nonna? Beh, assolutamente sì. Vedi Davide, l'esperienza codificata attraverso le ricette e comunque provata giorno per giorno porta ad un equilibrio anche nutrizionale incredibile. Quando una ricetta viene seguita, viene provata, viene aggiustata nel corso degli anni, dei decenni, e magari passa anche centinaia di anni questa ricetta nel corso della storia dell'uomo, vuol dire che è una ricetta che vale dal punto di vista gustativo, vale dal punto di vista nutrizionale e anche culturale. Questo è assolutamente fondamentale. Poi quello che io dal mio osservatorio assolutamente privilegiato, perché ci vivo costantemente con la nonna, ne discuto con la nonna, ho potuto osservare è che le esperienze della nonna, o comunque le ricette della nonna, erano molto aderenti a quello che erano i gusti delle famiglie. Quindi la cucina del ristorante e cucina delle famiglie, di casa intendo, erano due realtà che riuscivano a parlarsi in modo assolutamente privilegiato. Oggi come oggi forse è un po' meno facile che queste due realtà riescano a comunicare, perché la cucina del ristorante viene vista come un mito sì, ma forse irraggiungibile, un mito che usa talmente tanta tecnologia che non può essere riversato, certo, nella cucina di casa. E questo forse è un problema, perché il grande ristorante viene visto un po' come educatore dal punto di vista gastronomico, educatore alimentare. Bene, grazie a Giovanni Santini, grazie tanto. Sentiamo Enzo dalla provincia di Varese, veloce Enzo perché devo chiudere. Buongiorno Carlo, allora io sono di Salerno, però mia nonna era di Pavia, sì, e io ricordo, ho tantissimi ricordi dei suoi piatti, però per questione di tempo ne voglio dire uno velocissimo, che lei chiamava pasta al sugo fritto. Pasta? Pasta col sugo fritto. Sì. Che praticamente consiste nel fare un soffritto di cipolle, salvia e basilico, soffrittino, dopodiché una volta che è pronto il soffritto si mette il pomodoro senza coprire troppo, si fa andare per 5-10 minuti, 5-10 minuti e viene fuori un sughetto della fine del mondo. Bene, grazie. Vabbè, grazie. Diamo anche a Claudio da Firenze. Claudio da Firenze, buongiorno. Buongiorno Paolini e complimenti per la trasmissione. Veloce, ho 30 secondi. Oh, benissimo, io volevo raccontare della mia esperienza di nipote, caso specifico nipote figlio di due soli. Io sono nipote di due nonne, una partenopea e una fiorentina toscana, quindi di due modi di intendere la cucina e di trasmettere, nel caso specifico a me, il modo di cucinare in modo totalmente diverso. E la stessa cosa sto cercando di farla ora con mia figlia. Ogni Natale cucino, preparo io per la mia famiglia in modo diverso, un Natale in modo fiorentino. Napoletana è uno. Grazie Claudio, grazie. Devo chiudere purtroppo, devo ripassare appunto la linea alla regia per chiudere. Io ringrazio tutte le nonne e tutti i nipoti che sono intervenuti, vi do appuntamento domani, domenica alle 12.15 col riposo del guerriero e poi ogni giorno alle 11.05, alle 23.05 con la pillola. Buon weekend e magari con i piatti della nonna.